Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius, che questa sera inizierà parlandovi di vita artificiale. Sentiamo i titoli di questa puntata. La vita artificiale sarebbe nata in questa fine di maggio. La scoperta di Craig Venter è importante, ma lui è un abile comunicatore e di vita sarebbe meglio non parlare. Hanno tra i 25 e i 35 anni le 5 vincitrici italiane del premio L'Oréal UNESCO per le donne e la scienza. Hanno ricevuto una borsa di studio da 15.000 euro per proseguire le loro ricerche. Al Festival dell'Energia di Lecce, tante voci sulle risorse tradizionali e su quelle più innovative. Un buon dibattito in un clima costruttivo. Con l'innalzamento delle temperature del pianeta, le mele, le pere e le pesche saranno sostituite da datteri e noci di cocco? Se ne è discusso in occasione della Settimana della Biodiversità. Vita artificiale, abbiamo letto pagine e pagine sui quotidiani in questi ultimi 10 giorni. La vita artificiale creata da Craig Venter e il suo gruppo. Mebius in controtendenza, perché direi che dal punto di vista scientifico probabilmente, se avete scorso queste pagine, avete capito di che cosa si tratta fondamentalmente. Noi in controtendenza cerchiamo di ragionare invece sugli aspetti più, come possiamo chiamarli, sociologici e filosofici della vicenda, e quindi ho chiamato in causa un filosofo, Stefano Morigi. Buonasera Stefano. Buonasera Federico. Filosofo della scienza all'Università Statale di Milano. Allora, proviamo a ragionare su questi aspetti, anche quelli di tipo mediatico. Craig Venter è senz'altro un grande scienziato, però ha una altrettanto grande abilità di relazionarsi con i media. Io ho visto un po' di sue interviste, quelle principali, partite subito poche ore dopo l'annuncio della scoperta alla BBC, alla CNN. Insomma, lui con questa definizione di vita artificiale ci gioca abbastanza abilmente, perché la scoperta è importante, però sappiamo perfettamente che non si tratta di vita artificiale, è qualcosa di analogo al trapianto di un organo su un corpo, e quindi ci vuole un corpo vivente. Cosa ne pensi di questi aspetti appunto mediatici del personaggio? Verrebbe da dire, come diceva l'antico filosofo Eraclito, che la natura ama nascondersi, e noi potremmo aggiungere gli scienziati non altrettanto. In realtà Craig Venter in alcune sue interviste è stato preciso, ha spiegato che si parla di cellula sintetica perché è stata ottenuta a partire da un cromosoma artificiale costruito utilizzando informazioni lavorate in un computer, composti chimici, un sintetizzatore di DNA. Dopodiché lui sa benissimo che anche l'informazione, la comunicazione della scienza ha bisogno di una sintesi, ma di altro tipo, e la sintesi di altro tipo è quella che crea l'informazione, che crea la notizia, che crea l'evento. Siamo appunto nella società dei media, la conoscenza è un bene pubblico, ma è un bene pubblico che esso stesso ha bisogno di visibilità, di finanziamenti, certo. E visibilità e finanziamenti si ottengono anche creando eventi mediatici. Gli eventi mediatici si creano sintetizzando la notizia e prospettando, magari al di là della precisione dell'evento creato in laboratorio, le aspettative su quello che potrà succedere quando questo sarà rielaborato e avverrà tutte le ricadute tecnologiche che può avere, certo. Io tra l'altro consiglio a chi ci ascolta di utilizzare la rete, andare a trovare su YouTube, se ne trovano, qualche discorso di Craig Venter, e lì si potrà vedere che lui è veramente abile nel parlare, nel comunicare, nel rivolgersi a un pubblico. Ha delle capacità non solo dialettiche, proprio anche espressive eccezionali. Questa capacità degli scienziati di comunicare è fondamentale certamente nella loro carriera, soprattutto oggi quando ci sono di mezzo grandi investimenti, può essere anche, come dire, la loro rovina. Io ricordo il caso di Flashman e Pons, quelli della fusione fredda, una ventina d'anni fa, che invece annunciarono in modo assolutamente maldestro questa loro scoperta, che peraltro aveva ancora bisogno di un po' di lavoro teorico, e finirono in rovina, insomma, pur essendo Flashman per esempio un grandissimo scienziato. Io sono convinto che la visibilità e quindi la comunicazione è una componente fondamentale della pratica scientifica, e lo scienziato deve essere in grado, oltre di essere un abile ricercatore, di sapere rendere pubblico, no? Si diceva prima, la scienza è un bene pubblico e non è pubblico se non viene comunicato, deve essere un patrimonio della cittadinanza, della società, delle istituzioni che devono recepire ed eventualmente poi legiferare sulle avanguardie della scienza e della tecnica, e questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto economico, che può dar fastidio affrontare, ma non è secondario. La ricerca costa. Certo. La scienza ha dei costi oggettivi e, come si accennava prima, la comunicazione della scienza è anche funzionale ad attirare i capitali. Purtroppo sappiamo tutti qual è la situazione della ricerca, ma non solo in Italia, in generale, e sappiamo bene che il capitale privato spesso è utile, necessario, talvolta indispensabile per sostenere gli altissimi costi di queste ricerche, che richiedono macchine, strumentazioni sempre più sofisticate. E dunque la comunicazione serve anche a catalizzare capitali, occorre dirlo. Sì, io prima ricordavo il caso della fusione fredda, magari qualcuno dirà vabbè, ma la fusione fredda poi non si è vista. In realtà adesso lentamente si sta capendo che dentro questa area ci possono essere cose estremamente interessanti, ma per il modo in cui fu comunicato all'inizio, Flashman e Pons per esempio non riuscirono praticamente a trovare finanziamenti, perché avevano fatto una figuraccia, avevano convocato un quotidiano per parlare, il Wall Street Journal, per parlare della loro scoperta, e non seguita la prassi della comunicazione su un giornale scientifico, come invece ha fatto Greg Venter, no? È uscito su Science il suo contributo. Ecco, mai fare per esempio quell'errore lì. Esatto, e poi c'è un altro aspetto. Craig Venter sta già parlando delle applicazioni, no? Che potrà sviluppare attraverso questi batteri, per esempio per limitare l'inquinamento ambientale di vario tipo. Uno potrebbe dire che si sta portando un po' avanti rispetto ai risultati che ha effettivamente ottenuto, ma il portarsi avanti, per quanto criticabile in alcuni contesti, è un po', lo metto tra virgolette, l'opportunismo dello scienziato. Galileo sosteneva con convinzione davanti ai suoi avversari e davanti alle istituzioni del tempo il copernicanesimo senza ancora averne effettivamente le prove oggettive. Ne era convinto, era convinto che sarebbero arrivate quelle prove, che avrebbe potuto dimostrare nei fatti l'attendibilità di un modello astronomico, ma non le aveva ancora quando lo sosteneva, per cui anche lui stava facendo della comunicazione che andava al di là dell'evidenza disponibile. Grazie Stefano e buon lavoro. Grazie a te. Ciao Chiara Albicocco. Ciao Federico, buonasera a tutti. È uscita una rivista nuova, Query, una rivista di scienza trimestrale che però ha una lunga tradizione. Voi direte, una nuova rivista che ha una lunga tradizione, com'è questa storia? È così. Query è una rivista curata dal CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. È una realtà che opera già da più di 2 decenni, fondata da vari esponenti del giornalismo scientifico e della ricerca. Una realtà che iniziò la sua attività cercando di far capire al pubblico come le affermazioni sul paranormale, vi ricordate, te lo ricorderai anche tu, le famose radio che improvvisamente captavano le voci delle persone passate a miglior vita, oppure le sedute spiritiche. Beh, se ne sentono parecchie, esatto, di queste storie. Come quelle con apparizioni di fantasmi. Ecco, analizza come queste affermazioni erano e sono destituite di alcun fondamento sperimentale. Ne circolavano molte anni fa, oggi meno, ma non sono scomparse. Il CICAP però ha esteso la sua azione, e già da non poco tempo, a tutte quelle notizie dalle quali si parte per la tangente con estrapolazioni arbitrarie e grandi inesattezze. In questi anni il CICAP ha prodotto libri, dossier, davvero tanti, però ora ha deciso di avere con il pubblico un appuntamento fisso trimestrale con una rivista che raccoglie un po' tutta la sua attività e che si chiama appunto Query. Sì, Federico, io l'ho sfogliato e volevo segnalarti su questo primo numero una storia, la storia di una donna che si chiama Michelle e che per ovvie ragioni di privacy non se ne diffonde il cognome. Ecco, citerei direttamente dall'articolo di Sergio Della Sala, che è un neuroscienziato, che cosa ci scrive. Insomma, parecchi giornali hanno recentemente parlato del caso di Michelle, una trentenne della Virginia che ha un'esistenza quasi normale. E quasi normale perché, pur essendo nata senza metà del cervello, cioè la metà sinistra. La storia è certamente intrigante e è stata proposta come la dimostrazione dell'esistenza della plasticità del cervello, ma vediamo di che cosa si tratta. La mamma di Michelle lesse sul Washington Post un articolo che trattava delle ricerche di Grafman sulle straordinarie caratteristiche del cervello umano. Grafman è un neuroscienziato statunitense che trattava le straordinarie caratteristiche del cervello umano e lo contattò per chiedere il suo consiglio, preoccupata per alcuni problemi che sua figlia presentava fin dalla nascita e che appunto erano insoluti. Per esempio, non vede ciò che si trova alla sua destra e il suo polso destro è spastico. Inoltre Michelle si perde con facilità, non capisce ragionamenti astratti e ha la tendenza ad assumere atteggiamenti infantili. Però Michelle parla senza inceppi particolari, legge, va al cinema, guarda la televisione, gioca e partecipa alla vita familiare. Ha anche un lavoro ed è straordinariamente brava a calcolare date di calendari passati e futuri e ha un udito perfetto. Non male, insomma, per una persona che ha solo mezzo cervello. Allora, vado avanti nell'articolo. La vicenda di Michelle, però, è stata raccontata da periodici e quotidiani internazionali come una prova dell'esistenza della plasticità neuronale. È un'espressione che si usa a sproposito, parlando di improbabili apprendimenti senza sforzo e di protezione contro l'invecchiamento cognitivo o di sistemi per stimolare la creatività e l'intelligenza. Questo tipo di plasticità, chiamata tecnicamente neurogenesi, che è spesso sbandierata dai venditori di fumo, nulla ha a che vedere con la storia di Michelle, che invece dimostra l'adattamento di un cervello giovane all'ambiente, cioè la sua capacità di adattare aree normalmente deputate ad altro o a compiti diversi. Nessuna neurogenesi si è verificata in Michelle, nessuna crescita di cellule cerebrali, nessuna plasticità. E l'articolo si conclude dicendo: non diventiamo più giovani giocando col Nintendo, non diventiamo più intelligenti ascoltando la musica di Mozart, i nostri figli non saranno più bravi a scuola se compriamo loro prodotti del piccolo Einstein. Tutti questi prodotti si basano su un'idea di plasticità cerebrale fumettistica, mai dimostrata, e lontanissima dal meraviglioso stupore provocato da storie come quella di Michelle. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco che ha come soggetto le api. Eccoci qua, come vi ho detto poco fa, al centro del nostro quiz oggi ci sono le api. La domanda è la seguente: una famiglia di api è composta da una regina, da 500 a 2000 fuchi e però da quante operaie? Tre risposte come al solito: la prima circa 6000, scriverete 6000, la seconda circa 60000, scriverete 60000, la terza circa 600000, qui per brevità scrivete 600. Scrivete al 349-238-6666 con un SMS. Il libro che si vince questa settimana è Il Fattore X, il primo libro sulla medicina di genere scritto dalle donne e pensato per le donne. Le autrici sono Elisa Manacorda e Letizia Gabaglio, edizioni Castelvecchi. Delle api parleremo fra poco in un servizio. In collaborazione con IBS.it. Assegnati i premi L'Oréal UNESCO, i premi italiani, perché è internazionale questa premiazione, con sezioni in vari paesi, si premiano le donne che fanno ricerca scientifica. Ve ne parla Chiara Albicocco. Lunedì si è tenuta a Milano l'ottava edizione del premio L'Oréal UNESCO per le donne e la scienza. Un grande evento con numerose autorità sia del mondo politico che scientifico. Durante l'evento 5 giovani ricercatrici sono state insignite di una borsa di studio per poter proseguire i loro studi ciascuna nel proprio campo di ricerca. Si è dibattuto molto sul rapporto donne e scienza, ci si è chiesto se fosse un connubio virtuoso e in realtà sembra così, finché si rimane rimane ai livelli di ricercatrice. Ma quando si sale ai vertici? Ecco, sentiamo su questo Umberto Veronesi, famosissimo direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, che sostiene appunto la posizione delle donne nel mondo della ricerca. Noi nel mondo della ricerca le donne le vogliamo e sono molto richieste. Non è vero che preferiamo assumere uomini. Le giovani ricercatrici sono richieste perché sono brave, sono delle grandi lavoratrici, sono molto studiose e poi hanno quel atteggiamento che molti uomini non hanno. Hanno il senso dell'appartenenza all'istituzione. Sono fedelissime al loro impegno, al loro lavoro. E se hanno un obiettivo da raggiungere, lo raggiungono a tutti i costi. Quindi le donne sono tantissime in ricerca, ormai credo che abbiano superato il numero degli uomini. Il problema è un altro, come abbiamo detto tutti, che arrivati a un certo punto non riescono, se non in numero limitato, a raggiungere i vertici. Anche il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, sostiene la presenza femminile nel mondo scientifico e sottolinea un aspetto chiave nella carriera di una donna. La maternità influisce nella carriera? Io ho sempre cercato di incoraggiare tutte le donne che venivano da me, le ricercatrici, le universitarie, dicendo quasi timorose sono incinta. Dico, una cosa bellissima, la carriera non viene minimamente fermata, perché è una cosa realmente che fa molto spesso paura alle donne e dire ma come se io poi sto via per una maternità, questo non deve essere. Io chiedo veramente a tutti, chiedo all'autorità universitaria, chiedo a tutti proprio di lottare e di combattere per fare in modo che non ci sia questo timore che il fatto di una maternità come il fatto un tempo del servizio militare possa portare ingiustamente a quello che è un rallentamento di una carriera. Invece l'arricchisce, nella mia esperienza l'ha arricchito, non è una battuta, le mie due collaboratrici più fidate attualmente sono due professori ordinari, una di ingegneria e l'altra di medicina nucleare, che sono delle donne. Quindi io ho un'esperienza di donne nella ricerca, nell'attività scientifica, nell'insegnamento, nella gestione, non solo universitaria, anche a livello del CNR, positivissimo. Infine una donna scienziata e di successo, Ilaria Capua, direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle. Ecco, lancia una sfida alle giovani ricercatrici. La sfida vera che noi abbiamo è quella di uscire dagli schemi, perché si può uscire dagli schemi. Non è detto che a 25 anni ti devi laureare, poi ti devi sposare, poi devi fare subito 3 figli, non è detto che devi stare a casa un anno per ogni figlio per la maternità, perché ci sono 1000 sistemi oggi che ti permettono di continuare, certo non a lavorare con i virus o a lavorare con le provette a casa, però insomma ad essere viva nell'attività di ricerca. Ma siete voi che dovete volerlo, voi dovete desiderare di diventare delle leader in campo scientifico, perché questo non ve lo può regalare nessuno. E insomma, mentre venivo qua e cercavo di pensare a insomma, qualcosa di intelligente da dire, ho pensato, insomma, questa metafora. Esistono degli alberghi che hanno gli ascensori che vanno fino al 25esimo piano e per qualche motivo ci sono gli ascensori che vanno fino al 15esimo. Allora, le nostre mamme, le nostre nonne, i nostri padri, la rivoluzione culturale ci ha portato a poter studiare e a poter accedere a ad una realtà. Questo vi porta al 15esimo piano, non vi porta al 25esimo piano. Al 25esimo piano ci dovete arrivare da sole, è fatica, però le donne lo sanno fare e quindi veramente in bocca al lupo. Grazie. E ora veniamo a loro, le protagoniste della cerimonia. Cinzia Chiandetti, Valentina Domenici, Marina Faiella, Lavinia Nardinocchi e Maria Ludovica Sacca. Ognuna con una storia, ognuna con la speranza di continuare con passione la ricerca nel campo in cui oggi si sono distinte. Ecco, chi sulle metalloproteine, chi sulla radioterapia per la lotta ai tumori, chi sulla risonanza magnetica e chi, come Cinzia Chiandetti, 30 anni, psicologa, laureata a Padova, si occupa di fisica intuitiva e in particolare di fisica del pollaio. L'idea è quella di utilizzare un modello animale per scoprire in seconda sede quelle che sono le basi nervose e genetiche di queste competenze, ma quali competenze? Quelle intuizioni che abbiamo tutti i giorni, appunto da qui il nome di fisica intuitiva o fisica ingenua, quindi quelle competenze che ci permettono di trarre delle piccole inferenze sul movimento degli oggetti, per esempio, come l'altezza o la larghezza o l'impenetrabilità o il concetto di gravità, che quindi ci consentono di capire, ad esempio, se un oggetto cadrà al suolo o viceversa se si è opportunamente sostenuto e quindi rimarrà stabile su una superficie. E sono delle conoscenze intuitive che noi abbiamo fin da piccoli, cioè un neonato lo sa che se una mela cade dall'albero cade per terra. Esattamente, il neonato mostra gran stupore, quindi aumentano i suoi tempi di fissazione verso quegli eventi che sono fisicamente impossibili. Ho mostrato appunto l'esempio di una rana che era opportunamente occlusa, quindi da un occludente con l'altezza adeguata per nasconderla efficacemente. O viceversa. L'hai messa dietro un separé. Esattamente, o viceversa, una rana che non poteva essere a logica e appunto a fisica intuitiva correttamente occlusa da un appunto separé, uno schermo troppo basso. E quindi che cosa sono queste? Tu stai cercando di capire che cosa succede nel nostro cervello quando abbiamo queste percezioni che sono innate fondamentalmente. Esatto, sì, l'idea, siccome queste diciamo reazioni di stupore sono state verificate anche in altre specie, l'idea è capire effettivamente quanto dipendano dall'esperienza, quanto invece facciano parte di un bagaglio precostituito di conoscenze. Quindi potersi avvalere di un modello animale precoce come quello del pulcino domestico consente di valutare chiaramente quelle che sono l'influenza delle esperienze pregresse nel mondo fisico di tutti i giorni, per valutare quali competenze sono davvero innate e quali invece debbono essere apprese successivamente. E ora ci spieghiamo il perché del nome la fisica del pollaio. Esatto, perché la specie precoce scelta è appunto il pulcino di pollo domestico. Precoce in quanto immediatamente dopo la schiusa mostra un repertorio comportamentale pressoché completo, di conseguenza si presta a test cognitivi anche sofisticati come questo della valutazione di concetti come altezza, larghezza, solidità e mostra anche un fenomeno di apprendimento peculiare che è l'imprinting, quindi esposto ad un oggetto artificiale lo considera la stregua di una mamma ed è motivato a seguirlo, raggiungerlo quando è dislocato, nascosto, rendendolo perfetto per questo progetto di ricerca. Dunque, nei prossimi anni cosa farai? Proprio il progetto finanziato è proprio questo, quindi studierò quali componenti sono davvero alla base e il futuro sarà quello di comprenderne basi nervose e genetiche e soprattutto riuscire a sviluppare dei progetti di intervento che aiutino operatori del settore nell'educazione dei nostri bambini per quello che riguarda nozioni e teorie biologiche e scientifiche che spesso sono molto difficili da acquisire, perché sappiamo che i bambini fin da piccini mostrano una serie di intuizioni innate assolutamente scorrette. Ad esempio non realizzano la rotondità della Terra e la possibilità che tutti i personaggi in esse dislocati siano dislocati nella corretta posizione, con la testa in alto e i piedi sotto, ma disegnando un tondo per rappresentare la Terra, i personaggi che vengono a trovarsi al di sotto di questo cerchio sono rappresentati a testa in giù. Un'altra storia è quella di Maria Ludovica Sacca, giovanissima biologa presso l'Università La Sapienza di Roma e adesso si occupa di inquinanti e per la precisione di contaminanti emergenti. Per contaminanti emergenti si intende tutta una serie di molecole di recente introduzione nell'ambiente, tra cui farmaci, ormoni, interferenti endocrini principalmente, che una volta assunti dall'organismo possono essere espulsi in forma inalterata o parzialmente inalterata, non subire degradazione negli impianti di trattamento delle acque e dunque arrivare a contaminare l'ecosistema acquatico. Nel momento in cui noi prendiamo un farmaco, ok, lo ingeriamo, questo può essere espulso senza essere sintetizzato? Può essere espulso in una percentuale anche molto alta, anche fino all'80-90%, in forma inalterata o in forma di metaboliti che possono essere ancora attivi, quindi mantenere le proprietà del farmaco di partenza. Vengono espulsi attraverso le urine, le feci, eccetera, eccetera, esatto. Arrivano nelle aree di smaltimento, di depurazione e non vengono smaltite. Spesso molti di questi farmaci non subiscono degradazione negli impianti di trattamento perché i tempi di persistenza in questi impianti non sono sufficienti per permetterne la degradazione. E quindi in questo caso voi agite, cioè avete studiato il metodo per poter riuscire a, tra virgolette, limitare il danno, ecco. Sì, perché una volta presenti nell'ambiente ci sono tutta una serie di effetti ancora sconosciuti in gran parte, che tra cui effetti su organismi non bersaglio, anche e soprattutto la generazione di resistenza ai farmaci stessi, quindi perdita di efficacia di queste molecole. E noi stiamo studiando sia gli effetti a livello ambientale, ma soprattutto un modo per applicare dei microrganismi degradatori in situ per provvedere alla decontaminazione di zone inquinate. Allora, in situ tu intendi nei depuratori? Allora, in situ potrebbe essere, noi stiamo proprio lavorando su questo, quindi facendo prove con diversi campioni, sia con le acque proprio dei depuratori stessi, sia acque destinate alla potabilizzazione, sia acque superficiali di fiumi, laghi e acque sotterranee. Quindi la soluzione potrebbe essere immettere questi batteri che sintetizzano le sostanze. I batteri nello specifico degradano le sostanze, quindi le trasformano in maniera da eliminarle in maniera più o meno completa. Comunque, grazie all'opera di questi batteri o funghi specifici, si riesce a ridurre notevolmente la contaminazione da queste sostanze. E il nostro progetto è ancora all'inizio, quindi non è una cosa che risolverà al 100% la problematica nel giro di 2 anni. È una cosa che... È un piccolo passo. È un piccolo passo. Che la borsa L'Oreal ti aiuterà, insomma, a compiere. Sicuramente, sì. Infatti sono molto contenta di questa opportunità proprio per andare avanti su questa ricerca che probabilmente, cioè, non so come avrei continuato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Festival dell'Energia Lecce la scorsa settimana è arrivato alla sua terza edizione, è un meeting promosso dall'agenzia ARIS e da Asso Elettrica, tanti seminari, molte voci di tecnici, direi anche i più autorevoli in Italia, con anche un'interessante partecipazione di esperti internazionali. Il tutto, questo mi sembra il dato più importante da sottolineare, in un clima di dibattito molto tranquillo, costruttivo, pur alla presenza di opinioni abbastanza diverse. Una delle iniziative più simpatiche e anche divertenti è stata una serata dedicata al vero o falso, mito o realtà, una carrellata di affermazioni sui problemi energetici, alla ricerca di come stanno realmente le cose, aiutati da vari esperti in sala. C'era anche Giambattista Zorzoni, ingegnere, uno dei primi a interessarsi in Italia di politiche energetiche. Non sto a presentarveli tutti, che contano sono le voci. L'incontro era moderato da Maurizio Mannoni del TG3 Rai, che ha iniziato subito dal pezzo forte. Vabbè, cominciamo da dove? Rinnovabili, va bene? O vogliamo toglierci di mezzo il nucleare subito come un'Africa? Non ne abbiamo parlato abbastanza in questo momento, però c'è tanta gente che anche di questo vuole sapere, dai. Io direi nucleare, dai. Allora, entro il 2013 si poserà la prima pietra. Falso mito, vero? Dice il governo. Dai. È più facile che il Partito Democratico vinca le elezioni. No, i tempi abbiamo dibattuto prima, sono lunghi, 5 anni. Del resto anche il governo ha detto, speriamo, l'obiettivo è posare la prima pietra nella prima legislatura, appunto, 2013, ma sarà molto difficile, insomma, siamo in super ritardo su tutte le cose. Ma i tempi dell'energia, ricordiamoci, sono lunghissimi sempre. Anche quelle delle rinnovabili, del nucleare, sono ancora più lunghi in tutto il mondo. In Italia tutto viene amplificato, e anche questo, anche i tempi vengono amplificati, perciò ci vorrà molto tempo, non ce la faremo mai entro il 2030. No, eh? Ma Mannoni, non è detto che non metti la prima pietra, il problema è quando metti la seconda e finisci l'impianto. Le prime pietre in Italia ne hai viste tante. Allora, quando mettiamo la seconda? La seconda pietra quando la mettiamo? 12 o 13 anni è stata l'opinione largamente condivisa. Torneremo ogni tanto alla serata del vero o falso. Di nucleare si è parlato ampiamente a Lecce. In generale è emerso un certo accordo sul fatto che sia un'opzione perseguibile, ma detto questo, cautele, riflessioni varie sono emerse qua e là, per esempio quella di Francesco Rutelli, che, dichiarandosi aperto ad analizzare le opportunità del nucleare, però ha rivolto un'osservazione agli economisti delle centrali. Sentiamolo. Se il piano italiano costa circa 30 miliardi e non c'è la possibilità di ammortizzare le spese, cioè gli investimenti, in un quadro del mix come lo abbiamo dipinto, ci dovete ancora dimostrare che dentro la prospettiva italiana, rispetto a un grande piano sui trasporti, un grande piano sull'edilizia, a una seria politica dunque per l'efficienza e risparmio, e ad investimenti per le rinnovabili che siano anticiclici e funzionanti, ci dovete ancora convincere, e non ci siete ancora riusciti, che questa scelta sia una scelta strategica e non una scelta di cui ci dovremo domani pentire, perché abbiamo buttato 30 miliardi di euro in una situazione in cui non abbiamo neanche 200 milioni di euro per fare un'opera pubblica in Italia. Un passaggio adesso di Rick Duke, direttore delle politiche per il clima del Dipartimento dell'Energia statunitense, sempre sul nucleare americano. On the question of nuclear, this is an issue where President Obama has taken a fairly pragmatic view. Richard Duke dice che Obama ha fatto una scelta molto pragmatica, non abbiamo costruito centrali nucleari per 30 anni, puntiamo a un 25% di nucleare, quindi il nucleare sarà una parte del mix energetico che dobbiamo attuare, dice Duke, per fronteggiare l'escalation di CO2. Diversificazione, ovvero tante sorgenti energetiche che collaborano a una sostenibilità globale. Questo è stato un po' il leitmotiv di tutti i seminari, però bisogna anche che vi siano obiettivi comuni a livello mondiale e Copenaghen, il vertice che si è tenuto qualche mese fa, non è andato bene. Quale l'errore? Corrado Clini, direttore del nostro Ministero dell'Ambiente. Ora, queste problematiche, che sono problematiche enormi dal punto di vista economico, dal punto di vista energetico, non sono state considerate nella preparazione di Copenaghen, perché nella preparazione di Copenaghen è prevalsa una valutazione errata delle Nazioni Unite e in parte dell'Unione Europea, secondo la quale era opportuno prima fissare gli obiettivi e poi decidere come raggiungere gli obiettivi, e questo è un errore. Continuare su questa strada vorrà dire non raggiungere mai nessun accordo, perché giustamente un mese e mezzo prima di Copenaghen, a Singapore, alla riunione dell'APEC, il presidente Obama e il presidente Hu Jintao avevano detto non saremo in grado di raggiungere un accordo a Copenaghen, perché prima dobbiamo risolvere i problemi che sono alla base, che sono quelli di come si organizza e si alimenta il cambio del sistema energetico mondiale e come si modificano le regole economiche, perché per esempio una delle cose che giustamente è stata osservata da Wen Jiabao, il primo ministro cinese a Copenaghen, e dal presidente Lula in maniera molto brillante, è una considerazione molto semplice: se è vero che le emissioni di anidride carbonica crescono soprattutto nelle economie emergenti, per esempio in Cina, in India, piuttosto che in Brasile, gli investimenti globali per ridurre le emissioni globali di anidride carbonica devono essere prioritariamente diretti in queste economie. Infatti ci sono problemi specifici di ogni paese. Un esempio di grande problema particolare ci arriva dalla Cina e l'ha segnalato Cheng Ying, sociologa presso l'Accademia delle Scienze Sociali Cinese e direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo Sostenibile. Every year the urbanization rate increases 1%. Sapete cosa dice Chen Ying? Dice che ogni anno in Cina 14 milioni di persone si spostano dalle aree rurali e vengono verso le città. Quindi una città grande, una volta e mezzo New York ogni anno che bisogna costruire, e tutta questa gente ovviamente va a consumare molta più energia di quanta ne consumasse nelle campagne. Eppure una soluzione bisognerà trovarla. Paride De Masi, coordinatore nazionale di energia da fonti rinnovabili per la Confindustria, descrive l'obiettivo italiano e la situazione attuale invece. 25% da fonti rinnovabili, 25% da fonte nucleare, 50% da fonte fossile. Oggi le fonti fossili valgono l'85% dell'intero nel panorama nazionale. Quindi diciamo dipendiamo dall'estero. Allora, perché non abbassare pian piano questo livello e portare su le fonti rinnovabili? Tra l'altro abbiamo un obiettivo preciso, che è quello del 2020, noi dobbiamo raggiungere, proprio perché il protocollo di Kyoto, ma anche la direttiva comunitaria ce lo impone, pena l'infrazione comunitaria che andremo a pagare come paese, l'obiettivo di raggiungere il 17% di produzione di energia rispetto di energie rinnovabili rispetto ai consumi. Oggi siamo già al 10%, e quello che diceva Francesco Rutelli è assolutamente vero, perché la crisi ha abbassato la soglia dei consumi. Quindi questo del 17%, che sembrava un obiettivo irraggiungibile, è diventato un obiettivo raggiungibilissimo. Perché, dice sempre Masi, c'è un imperativo preciso e forse qualcuno non se ne fa carico abbastanza, anzi fa della facile ironia. Nasce per un'esigenza. Ineludibile. Dobbiamo risolvere il problema dei cambiamenti climatici che sta mettendo a repentaglio il futuro delle generazioni che verranno. E qui non ci sono costi o pippe, scusate se uso questo termine, però lo conio io. Che addirittura abbiamo un ministro della Repubblica Italiana, a me molto simpatico, il ministro Brunetta, che in un'intervista ha detto a Cernobbio, nel forum internazionale di Confcommercio, dal punto di vista scientifico le energie rinnovabili sono pippe a costi inaccettabili, che contribuiscono in modo marginale al fabbisogno energetico del paese. Signori, siamo davanti ad un ministro della Repubblica Italiana. Allora, uno è il film erotico giapponese, l'altro le pippe inaccettabili. Nessuno ha ancora compreso, e io mi sono fatto aiutare dalla filosofia, dai sociologi, che questo è una necessità. Torniamo alla serata su vero o falso. Il nucleare è un'energia a basso costo. Bene, i cittadini risparmieranno moltissimo. Io rispondo che nessuno sa il costo fin quando la centrale è finita. Quindi io mi stupisco di tutti quelli che dicono, intendiamo, che è alto o che è basso. Scusi, perché nessuno lo sa fin quando è finito. No, io direi che il costo, ripeto, io qua parlo da economista che ne so molto di più di voi. Vi posso dire che nell'economia mica tutto è così certo, ecco. Anzi, neanche i costi, oggi parliamo di costi, qua 5, 10, crearci dei numeri. In realtà quando si parla di tempi di 60 anni, ritorno sul capitale, su quei tempi così lunghi, tassi di interesse, queste cose qua, è molto difficile. Poi ci sono dei costi che vanno socializzati, delle scorie che sono irrisolvibili, questi problemi. E magari adesso vediamo un altro problema. Le pale eoliche riducono la produzione di latte delle mucche. È vero o è un falso mito? Dunque allora, quello che è certo è che gli agricoltori che hanno investito di recente sulle rinnovabili stanno guadagnando molto di più di quelli che hanno investito sulle mucche. Questo è fuori discussione. Perciò in Germania in questi giorni si sta decidendo di togliere ogni tipo di incentivo al fotovoltaico sui suoli agricoli, su terra. Perché c'è molta gente che ha investito in Germania, adesso qua in Italia c'è un boom, vedevo con l'aereo oggi scendendo su Brindisi, ci sono molti impianti fotovoltaici su terra, guadagnano molto di più. Francamente io sono d'accordo sul dare dei soldi agli agricoltori, che tra l'altro la PAC, la politica agricola comunitaria, ci costa un anno su un bilancio complessivo comunitario di 80 miliardi e ci costa 40 miliardi di aiuti. Li abbiamo tolti e li dobbiamo dare in qualche altra maniera. Certo che perché i grandi piani sulle rinnovabili prendano il largo ci vuole una politica nazionale molto precisa. Negli USA, ci dice Duke, le cose stanno così. We are doing everything we can to move to follow up on the progress made on one half of our legislature last summer and passing a bill that would cut emissions. L'obiettivo è quello di riuscire a raggiungere una riduzione dell'80% entro il 2040 e, dice Duke, stiamo mettendo a punto un programma che possa dare una stabilità di 40 anni, fondamentale perché gli investitori possano buttarsi in questo campo. Pensate, insomma, un progetto che guarda avanti di 40 anni. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendo a raccontarvi del Festival dell'Energia a Lecce. Per intervenire bene sulle questioni ambientali ci vuole pure un gioco di squadra fra le realtà che in un paese contano molto sul piano economico, industriale, per esempio. In Giappone, racconta Walter Nova della Mitsubishi Italia, è successo questo. Certo, è in prima fila e ci tenevo molto a dire di questa associazione CHAdeMO, che agevolerà, diciamo così, l'introduzione dei veicoli elettrici in tutto il mondo praticamente. Mitsubishi, Toyota, Subaru, Honda, tutti quanti stanno concorrendo per arrivare a produrre veicoli elettrici con batteria di ionio di litio. Quindi quello che si è verificato è una associazione che unifica questi grandissimi costruttori di auto che stanno cercando degli standard comuni? Certo, stanno cercando degli standard comuni, come ad esempio la ricarica veloce, che è fondamentale sia a livello psicologico per chi guida questa vettura, ma anche proprio a livello pratico, e quindi stanno cercando di unificare la presa che può essere appunto adoperata per tutti quanti i costruttori, ecco. Quindi è una cosa abbastanza complicata, basti pensare alle prese di ricarica dei telefonini, quanti ne abbiamo, quindi immaginiamoci in quel ramo. Poiché la sostenibilità è diventata importante, c'è pure il rischio che non pochi se ne approfittano. Federico Butera, del Politecnico di Milano, grande esperto di edilizia sostenibile, si rifà a un'altra definizione, il greenwashing, e ci spiega cosa vuol dire, poi la commenta. È un neologismo americano che dice dipingiamo di verde. Cioè una cosa che è uguale, non la cambiamo in nulla assolutamente, solo gli diamo una mano di verde, a questo punto è diventata sostenibile, una meraviglia. Nel campo del design, visto un libro che si chiama Eco Design, ma è possibile che una lampada è sostenibile perché è fatta con plastica riciclata, con una coefficiente di trasparenza del 10%, per cui devo mettere dentro una lampada che è 9 volte, 10 volte più potente per avere la stessa luce, ed è una lampada sostenibile. Un tema su cui si sono registrate molte divergenze, gli incentivi alle rinnovabili come il fotovoltaico. Alcuni li ritengono sbagliati perché fanno diventare conveniente quello che sul mercato non lo sarebbe. Zorzori ricorda però due esempi, iniziando dalle turbine a gas che oggi sono presenti in molti impianti e che nessuno contesta perché efficientissime. Allora, io faccio due esempi. Queste turbine a gas sono il risultato degli investimenti pagati dai taxpayer degli Stati Uniti nel sviluppo delle turbine per gli aerei militari, di quali, dovendo avere prestazioni molto spinte, ci hanno messo un sacco di soldi, per quando hanno sviluppato i materiali giusti, i disegni giusti per poter arrivare a 1200-1400 gradi. È chiaro che adesso le turbine a gas dei cicli combinati si reggono sul mercato, ma dietro hanno una storia di finanziamenti che non compaiono, però ci sono stati e qualcuno li ha pagati, e stati pagati con le tasse dei contribuenti americani. Lo stesso, scusate, è banale, vale per il nucleare. Non dimentichiamo che c'è tutta una storia, vero, e che probabilmente quello che hanno investito allora in così pochi anni, difficilmente in campo civile qualcuno li avrebbe investiti. Se andiamo poi nel campo delle telecomunicazioni è lo stesso. Quella cosetta con cui noi cambiamo il canale all'infrarosso è nato come cosa bellica, serviva per stanare i Vietcong che stavano sotto nei cunicoli, è stato sviluppato pagando, cioè tutte le grandi innovazioni hanno bisogno di un incentivo di varia forma. Allora l'eolico, per sua disgrazia, non ha nessuna funzione militare né spaziale, e allora qualcuno lo deve finanziare l'incentivo perché cresca fin quando diventa competitivo. E con i rigassificatori come siamo messi? Va bene, i rigassificatori sono delle bombe. Delle sole. Dai, falso mito, c'è del vero? No, non è vero, ce ne sono 50 in giro per il mondo. Barcellona ce n'è uno dal 63, l'anno espenso era 2 miliardi, è arrivato adesso a 40 miliardi. Ce ne sono 50 in tutto il mondo. Nella baia di Tokyo ce ne sei. Fra un meeting e l'altro, nelle strade si poteva sentire ottima musica come questa. Bella città Lecce per trovarsi in tanti a ragionare con calma su questi temi. Oserei dire una città perfetta. Lasciamo Lecce, andiamo alla soluzione del quiz. Ve lo ricordate? Quanti sono le operaie nella famiglia di Appi? 6.000, 60.000, 600.000, ovviamente circa. La risposta esatta era la seconda. Sono tra le 40.000 e gli 80.000, quindi 60.000 era una buona previsione. Se vi piacciono le pesche, dovrete però sostituirle con i datteri. Non è certo, però potrebbe accadere. Come? Ve lo spiega Barbara Galavotti. Si è appena conclusa a Roma la settimana della biodiversità. È stato un evento organizzato da Bioversity International. Bioversity International è la più grande organizzazione al mondo dedicata alla ricerca sull'uso e la conservazione della biodiversità agraria e abbiamo avuto più volte occasione di sentire qui a Mebius qualcuno dei suoi esponenti. Nel corso della settimana si è discusso su come creare un pianeta più sano e come difendere la salute di tutti rispettando al contempo le culture e le tradizioni locali. Si è parlato anche di come l'agricoltura possa adattarsi ai cambiamenti climatici che ormai appaiono in una certa misura inevitabili. Delle coltivazioni italiane in particolare ha parlato Carlo Fideghelli, direttore del Centro di Ricerca per la Frutticoltura. Buonasera Carlo Fideghelli. Buonasera. Proviamo a immaginare un aumento delle temperature medie di 1-2 gradi. Cosa avverrà nelle piante che tipicamente coltiviamo in Italia? Dovremmo cambiare dieta? Cominceremo a mangiare, non so, datteri o noci di cocco? Io posso fare un breve commento relativo alle piante arboree da frutto di cui mi occupo come istituto di ricerca per la frutticoltura, o meglio dire centro di ricerca per la frutticoltura del CRA. Devo dire che il CRA è il Consiglio per la ricerca in agricoltura che afferisce al Ministero delle Politiche Agricole. Nel settore delle piante arboree da frutto le preoccupazioni, a mio giudizio, da questo punto di vista, cioè del riscaldamento globale, sono modeste e ne spiego la ragione. Olivo, vite e agrumi che per l'Italia hanno un'importanza enorme sul piano delle superfici coltivate e l'importanza economica delle produzioni, sono perfettamente adattate a climi caldi al limite del subtropicale, per cui un innalzamento come quello che lei ha citato non comporterà problemi particolari. Qualche problema in più lo potremmo avere per le altre specie da frutto, parlo di pero, melo, pesco, susino, albicocco, però anche per queste specie da tempo è in atto a livello mondiale un'attività di miglioramento genetico per renderle più adattabili a climi più caldi, non in vista del cambiamento climatico, ma con l'obiettivo di renderle coltivabili anche in aree più meridionali di quelle di dove queste colture sono originarie. Per cui, per dire, oggi in Nord Africa, in Egitto in modo particolare, ma non solo in Egitto, il pesco, che è una specie temperata, è largamente coltivato perché ci sono nuove varietà adatte a questo tipo di clima. Quindi, se capisco bene, le varietà di frutta, certe varietà di pesca, ad esempio, che mangiamo adesso, già non sono più quelle che si mangiavano alcuni decenni fa. Ma allora hanno ragione le persone che dicono che abbiamo perso dei sapori, le pesche non sono più quelle di una volta? Questo è vero solo in parte, perché bisogna tener conto di 3 o 4 aspetti legati alla qualità. Uno è la stagionalità. Il consumatore di oggi è abituato a consumare, a chiedere, a consumare, perché trova sul mercato frutta in tutte le stagioni, mentre la frutta ha una stagionalità da un punto di vista biologico. Le pesche sono un tipico frutto estivo che matura dalla fine di giugno, o maturava dalla fine di giugno fino alla fine di agosto, metà settembre. E in quella stagione, ancora oggi, le varietà sono buone, sono squisite, a volte sono anche migliori del passato. Un altro aspetto da tenere presente è che le grandi produzioni di oggi non consentono di raccogliere oggi e consumare domani, ma si raccoglie oggi, poi c'è il confezionamento e la spedizione su mercati a lunga distanza, per cui il frutto a volte viene raccolto prima della perfetta maturazione e anche questo può compromettere la qualità. Un altro aspetto al quale io attribuisco una importanza non marginale è l'effetto nostalgia. Tutto ciò che ricorda la nostra infanzia spesso assume un sapore diverso per effetto del tempo che è passato. Anche le pesche erano più buone. Insomma. Anche le pesche erano più buone. Un altro aspetto che riguarda la conservazione è quello proprio della conservazione dei semi, perché dei semi di varietà che oggi non usiamo possono contenere dei geni che possono essere utili in un futuro per far fronte a qualche evenienza di cui oggi non stiamo tenendo conto. Ecco, lei cosa mi dice di questa parte di conservazione dei semi e delle nuove tecnologie che possono essere applicate nella conservazione delle varietà? Intanto una prima precisazione, le piante arboree da frutto non vengono conservate per seme ma vengono conservate come piante in vivo perché si moltiplicano non per seme ma per innesto, per cui va tenuta proprio la varietà in campo o al limite anche in vitro, in laboratorio attraverso tecniche molto aggiornate di conservazione, anche crioconservazione sotto freddo spinto in azoto liquido. però questo aspetto conservativo ha ancora un'importanza limitata, anche se in prospettiva è destinata ad aumentare. La fondamentale importanza di conservare le vecchie varietà, posso portare alcuni esempi. Tutti sanno dell'importanza del succo di arancia rossa di Sicilia, solo in Sicilia, nel mondo intero, sono state conservate e coltivate. Oggi si è dimostrato che il succo colorato delle arance è fondamentale per migliorare la componente nutraceutica, cioè i componenti antiossidanti. Ma esempi del genere li abbiamo anche in pescicoltura. Oggi c'è un'attività di miglioramento delle pesche a polpa rossa proprio per la loro ricchezza di antociani, e nei prossimi anni si troveranno sul mercato pesche a polpa rossa, pere a polpa rossa. E dal punto di vista delle biotecnologie che cosa ci dice? Dal punto di vista delle biotecnologie un aspetto molto importante riguarda per esempio l'accelerazione che le biotecnologie possono dare al processo di selezione delle nuove varietà migliorate. Tenga conto che per ottenere una nuova varietà migliorata di melo servono mediamente dai 15 ai 20 anni. Con le biotecnologie sarà possibile ridurre questi tempi di almeno un terzo, per cui invece di 20 anni o 15 magari solo 10 anni, sempre tempi lunghi, ma tenga conto che le biotecnologie sono in forte evoluzione. E una volta che sarà definitivamente chiarito l'utilizzazione sostenibile, onesta, corretta della trasformazione genetica, la trasformazione OGM. Genetica, i famosi OGM, potranno dare un contributo fondamentale. Siamo in una fase di transizione, non tutto ancora ben definito e chiaro in termini di sicurezza, però il progresso porterà a rendere sicuro anche questo tipo di tecnica, che aiuterà molto ad abbreviare i tempi. Grazie Carlo. Prego. Fideghelli, buonasera. Buonasera. Siamo in chiusura di questa puntata, allora non basta, abbiamo bisogno di più dati per la nostra inchiesta, quella che abbiamo lanciato la scorsa settimana. Non posso dirvi di che si tratta, dovete fare voi un'inchiesta, una domanda molto semplice a due maschi e due femmine, però se vi dico adesso di che domanda si tratta, allora poi la gente si prepara e il risultato è alterato. Per sapere tutto e per parteciparvi dateci una mano, insomma andate alla pagina Moebius Scienza su Facebook, lì trovate tutto spiegato. Moebius allora finisce qui, buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana.